2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungerci attraverso la email, Facebook e anche Twitter. Negli Stati Uniti in particolare continua il dibattito sulla pubblicità veicolata attraverso gli assistenti virtuali di casa. Abbiamo parlato all'inizio della puntata della scorsa settimana, un tema molto interessante, molto affascinante, che sicuramente arriverà anche in Italia in forma di dibattito, vedrete che prima o poi succederà. Al centro di tutto ciò c'è da un lato Google Home, dall'altro Amazon Echo, che sono i due assistenti di casa, assistenti virtuali più diffusi. Sono disponibili negli Stati Uniti e in altri paesi, ma ancora non in Italia. Che cosa sono? Sono cose che si collegano a internet, grossi come un barattolo di marmellata, grosso modo. Sono in casa e tu puoi parlare a questi sistemi, che sono in ascolto. Quando si attivano con la parola d'ordine OK Google, oppure Alexa, che è l'assistente virtuale di Amazon, loro ascoltano e tu puoi fare domande. Che tempo fa oggi? Quanto tempo ci impiego ad andare al lavoro? Poi bisognerebbe domandarsi se sono veramente utili, però diciamo, sono come un maggiordomo al quale si possono fare delle domande. Per il momento capiscono alcune cose, mano a mano che i sistemi di intelligenza artificiale migliorano capiranno sempre di più. Ma il tema legato alla pubblicità è nato, cioè il dibattito legato alla pubblicità è nato da un messaggio pubblicitario lanciato in TV da Burger King, dove c'è un personaggio, un cameriere di Burger King, un commesso di Burger King, che dice durante questo spot pubblicitario OK Google, e in quel modo si attiva l'assistente che sia almeno ad alcuni metri dal televisore, sentendo questo messaggio. E quindi negli Stati Uniti ci sono quelli che dicono: ah, bella questa idea, creativa, oppure quelli che invece contestano e criticano questa idea, perché dicono: no, è una invasione della mia privacy, perché tu che mandi un messaggio pubblicitario dalla TV attivi un assistente che è in casa mia. Per il momento Google ha fatto un upgrade, cioè fa in modo che le voci delle persone che vivono nella casa vengano riconosciute. Quindi, che ne so, il papà domanda quanto tempo impiegherò a arrivare al lavoro, il sistema, sapendo dove deve andare al lavoro, dà una risposta di un certo tipo. Se lo fa la mamma, la risposta sarà di altro tipo. Però tutto ciò non inibisce messaggi che arrivano dall'esterno. Vedremo se poi sarà questa evoluzione. Insomma, il tema è molto interessante. Andate ad ascoltare l'inizio della puntata della scorsa settimana per rendervi conto meglio di come è questo messaggio e di cosa potrà succedere anche nel nostro paese quando arriveranno questi sistemi. Una evoluzione ulteriore determinata dall'evoluzione tecnologica della pubblicità. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. A 3 anni dalla scomparsa del volo MH370, la Malaysia Airlines è la prima compagnia aerea al mondo a firmare un accordo con 3 società, una si chiama Aireon, FlightAware e Seataon Air, per dotare i propri aeroplani di un sistema di geolocalizzazione globale che vada oltre gli attuali sistemi che non coprono alcune parti degli oceani e anche i poli. Questo nuovo sistema si basa sui nuovi satelliti della costellazione Iridium, sarà attivo dal 2018 e quindi Malaysia Airlines dice: noi siamo i primi, e una cosa come quella che è accaduta al volo MH370 non dovrebbe più succedere, o almeno dovremmo sapere dove si trova minuto per minuto, secondo dopo secondo, il nostro aereo. Sembra incredibile, ma ancora oggi appunto ci sono alcune aree del pianeta che non sono localizzate, quindi se un aereo scompare in quelle aree non si ha la posizione precisa. Tra l'altro ricordo che Aireon, scritto Aireon, è una società americana di cui Enav, l'italiana Enav, detiene il 12,5%, mi sembra un buon investimento. Comunque sulla tecnologia è sicuramente un investimento interessante. Cambiamo argomento, sono stati pubblicati nuovi dati Audi Web. il numero di persone che si sono collegate ad internet tramite PC o smartphone in Italia nel corso del mese di febbraio è di 30,7 milioni, il 56% della popolazione dai 2 anni in su. Da questa settimana è attivo anche in Italia ed è l'8° paese del mondo dove è attivo Amazon Pay, che è il sistema di pagamento di Amazon a cui si può abbinare una carta di credito. Il sistema permette di pagare su siti di e-commerce terzi rispetto ad Amazon e sfruttare invece il sistema di pagamento di Amazon. Nel mondo dei pagamenti ci sono tantissime cose che stanno accadendo, nuovi sistemi che stanno arrivando. A giugno ricordo che arriverà Apple Pay e molti attendono per capire come cambierà il mercato, essendo Apple molto, insomma, piuttosto diffusa, soprattutto diffusa tra chi spende molti soldi. A proposito di pagamenti, merita una menzione Mastercard, che ha iniziato a sperimentare una carta di credito che ha integrato, pensate un po', un sensore per l'impronta digitale, tutto nella carta di credito. Quindi una volta appoggiata la carta nel POS, oppure inserita la carta nel POS, basterà appoggiare un dito sul sensore per autenticare la transazione. Nessun PIN, nessun sistema alternativo. L'unico problema è che non puoi cedere la carta, perché ovviamente è una carta personale, perché è collegata al sistema di impronta digitale. Ricordo che ci sono molti studi sulla sperimentazione di sistemi biometrici per l'autenticazione di varie cose, ma in primis i pagamenti. L'industria sta sperimentando varie cose. Allora, oltre al riconoscimento dell'impronta digitale, c'è il riconoscimento facciale. Ovviamente tutte queste cose non è che sono legate necessariamente alla carta di credito, sono tutti sistemi che possono essere, inseriti all'interno di uno spazio dove vengono vendute merci, quindi ad esempio un negozio. Allora, riconoscimento facciale, riconoscimento degli occhi o dell'iride, il riconoscimento della voce, e poi ci sono sperimentazioni sul modo di camminare, cioè tu entri nel negozio, ci sono delle videocamere che vedono come cammini e anche quello è un'impronta biometrica unica e automaticamente il pagamento viene autorizzato dal modo con cui cammini. Ma ce n'è una bellissima, una startup israeliana che ha ideato un sistema che capisce dal modo con cui tu digiti sullo smartphone se sei tu oppure sei un'altra persona. Quindi basta che tu, digiti un codice, ma non solo il codice serve per autorizzare il pagamento, ma anche il modo con cui tu digiti, quindi la pressione, il movimento delle dita, è una cosa singola e singolare e diversa da ogni persona. Incredibile, incredibile. Un'ultima notizia riguarda il mondo televisivo, perché ogni mese ci sono novità. Direi anche nelle ultime settimane moltissime novità. Pochi giorni fa è arrivata una nuova offerta nel settore della TV su internet. Sky ha lanciato Now TV Mobile, quindi è l'evoluzione della propria offerta Now TV. 7 euro al mese per vedere contenuti di Sky solo su tablet e smartphone. Questa settimana l'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato nuovi dati aggiornati sul variegato, complesso, frammentato mercato della Internet degli oggetti. Molte cose stanno accadendo, questo è un mercato in crescita, stiamo parlando di un mercato giovane, non ancora maturo, quindi ancora in crescita, diciamo che non abbiamo visto ancora nulla di quello che succederà nei prossimi anni. Quanto vale, quanto cresce questo mercato in Italia, ma soprattutto che cosa è Internet degli oggetti al momento? La parte più grossa del mercato, da che cosa è composta? Angela Tumino è il direttore dell'Osservatorio Internet of Things che ha realizzato e presentato questa ricerca. Sì, il mercato Internet of Things in Italia inizia a essere un mercato rilevante. A fine 2016 abbiamo stimato un valore di mercato di 2,8 miliardi di euro, con una crescita rispetto al 2015 del 40%. Crescita che è allineata addirittura superiore ad altri paesi europei, quindi assolutamente un buon risultato per il mercato italiano. Quando parliamo di Internet of Things, che cosa intendete? Parliamo sostanzialmente di portare il concetto di internet, di connessione, agli oggetti della nostra vita quotidiana. Quindi non stiamo parlando di smartphone, di computer, di tablet che nascono ormai come oggetti connessi. Stiamo parlando di automobili, di contatori, di oggetti all'interno delle nostre case piuttosto che nelle nostre città. Oggetti che fino a ieri non avevano una connessione. A proposito di contatori e automobili, mi sembra di capire che questi due oggetti fanno la stragrande maggioranza di questa crescita del mercato per il momento, in attesa che poi ci siano anche le industrie con tanti oggetti connessi al loro interno e tanti altri servizi in giro per le città. Assolutamente sì, questi due ambiti insieme e di applicazione fanno circa metà del mercato. In un caso, quello dei contatori, il mercato è molto trainato da obblighi normativi. L'autorità in Italia ha deciso ormai da qualche anno di spingere sull'adozione di contatori connessi anche per il gas, e questa è una peculiarità italiana, sono pochi paesi in Europa e nel mondo che stanno puntando su questo aspetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il contatore del gas nelle nostre case diventa progressivamente connesso e quindi è in grado di trasmettere gli effettivi consumi di gas all'interno dell'abitazione, eliminando tutti i problemi legati a stime di consumo che poi portano a bollette non sempre corrette. Quando parliamo in questo caso, ma anche poi negli altri, di connettività e quindi di oggetti connessi, parliamo sostanzialmente della presenza di una SIM dati che si connette alla rete di telefonia mobile? Allora, in molti casi sì, il 60% del mercato si basa su rete cellulare, quindi una SIM a bordo degli oggetti connessi, ma poi sono tante, sono sempre di più le tecnologie che abilitano la connessione dei dati, quindi anche nuove reti che sono nate e sono già disponibili in gran parte del territorio italiano, pensate proprio per consentire agli oggetti di trasmettere informazioni in maniera facile, usando poca energia, quindi non avendo la necessità di avere un'alimentazione poi anche elettrica per questi oggetti che possono essere quindi posizionati in maniera semplice anche all'interno delle nostre città. Questo è un aspetto interessante che voi giustamente sottolineate, perché fa parte di tutta quella serie di tecnologie che stanno abilitando le Internet of Things, la Internet degli oggetti, cioè reti che stanno nascendo parallelamente alle reti di telefonia mobile. Sono cose che normalmente il consumatore finale non vede, non ci accorgiamo, perché sono destinate a servizi business, a servizi industriali, però reti che utilizzano altro tipo di frequenze rispetto a quelle classiche della telefonia mobile e altre tecnologie di connettività. E da un certo punto di vista è incredibile, ma conferma l'effervescenza del mercato, vedere quanto crescono queste reti parallele e alternative che stanno coprendo quasi tutto il territorio italiano. Ed effettivamente, quante ce ne saranno già? 2, 3, 4 o addirittura decine? Allora, qui bisogna distinguere, ci sono alcune reti addirittura che hanno già una copertura quasi nazionale, quindi nell'arco del 2017 arriveranno ad avere una copertura nazionale, quindi paragonabile per certi versi alle reti di telefonia, seppur pensate per applicazioni completamente diverse, con requisiti diversi. Ce ne sono invece tante altre che stanno nascendo più su base locale, proprio perché vengono installate contestualmente all'avvio di alcune applicazioni specifiche, come ad esempio proprio nel mondo delle utility si stanno iniziando a installare queste nuove reti. Comunque, insomma, parliamo di poche reti, grandi reti, però non decine di reti, giusto? No, stiamo parlando di decine di reti, stiamo parlando di qualche tecnologia, diciamo qualche rete, e spesso diciamo che possono nascere anche poi in maniera sinergica e complementare, perché hanno caratteristiche che si adattano a contesti anche applicativi un po' diversi, quindi non stiamo parlando di eccessiva ridondanza. Certo, poi anche che trasmettono pochi dati, perché se pensiamo il contatore non è che deve trasmettere dei megabit o dei gigabit, no? Mica deve fare le fotografie il contatore, deve trasmettere un po' di dati. Esattamente, ed è proprio questo il tema, perché le reti tradizionali cellulari erano state pensate per altri scopi, quindi spesso si adattano male a esigenze di oggetti connessi che devono trasmettere pochi dati, ma magari hanno una batteria che è difficile e costosa andare a ricaricare, come pensiamo al contatore del gas, di certo non possiamo portare il filo dell'energia elettrica, e quindi deve farlo in maniera molto efficiente. Certo, quindi è una batteria che dura 15 anni, cosa che sta succedendo. Le automobili, ecco, questo è un altro grande tema molto interessante, perché stiamo parlando di una serie di servizi che stanno nascendo e nasceranno sempre di più attorno al mondo dell'automobile. Voi stimate che in Italia ci siano già, e questo dato devo dire che mi ha sorpreso, 7,5 milioni di veicoli connessi. Sono tantissimi. Sì, sono tanti. La maggior parte di questi, circa l'80%, sono veicoli connessi attraverso i cosiddetti box assicurativi, quindi i box che vengono installati e che trasmettono la posizione del veicolo, con la finalità di raccogliere informazioni utili a offrire poi polizze assicurative personalizzate. Ma il trend più interessante e più recente è sicuramente quello delle auto che noi definiamo nativamente connesse, ovvero quelle che escono già dalla fabbrica con la connettività a bordo. E questo apre tantissime opportunità. Si è lavorato e si sta lavorando sulla cosiddetta chiamata d'emergenza, quindi in caso di incidente l'auto chiama i soccorsi trasmettendo informazioni utili su quanto è accaduto e quindi per intervenire tempestivamente, ma poi si stanno associando anche altri servizi, da quelli di manutenzione, quindi monitoraggio dell'automobile da remoto per ricevere consigli e suggerimenti su quando effettuare manutenzione preventiva per effettuare guasti, guardando effettivamente quanto si stanno usurando, consumando i vari componenti, piuttosto che tutta una serie di funzionalità legate al comfort, alla comodità, la possibilità di chiudere ad esempio l'automobile da remoto. Quanti di noi si saranno accorti, avranno avuto il dubbio di non avere chiuso l'auto magari quando di corsa sono andati a prendere il treno, oppure la possibilità di accendere riscaldamento, condizionamento a distanza, in modo tale da trovare l'auto nelle condizioni, diciamo, perfette nel momento in cui salgo a bordo. Ecco, si sta lavorando su tutta questa serie di servizi che sfruttano il fatto che l'auto è connessa e in grado di comunicare con noi. Un'ultima domanda sulla famosa, e questa è una parola fin troppo abusata, industria 4.0. C'è qualche segnale di vita da questo punto di vista? Perché buona parte di industria 4.0 è fatta da internet degli oggetti. Sì, assolutamente. Allora, su questo dobbiamo dire che il recente piano sull'industria 4.0, che è stato approvato e portato avanti, il cosiddetto piano Calenda, ha degli elementi molto interessanti nell'ottica di andare a spingere sull'adozione di soluzioni, in primis Internet of Things, ma non solo, nell'ambito industriale. E l'altro elemento interessante è che spinge molto anche sul creare cultura, creare nuove figure esperte su questi temi. Noi abbiamo fatto un'indagine su un centinaio di aziende medio grandi in Italia e in una su quattro non sapevano cos'era l'Internet of Things, cos'è l'Industrial Internet of Things, quindi le applicazioni in ambito industriale abilitate a questo paradigma. E questo è sicuramente molto grave, e quindi il piano può portare dei miglioramenti, a nostro avviso, anche in questa direzione. Questa settimana c'è stata a San José, negli Stati Uniti, in California, F8, che è la conferenza dedicata agli sviluppatori Facebook. Naturalmente ha parlato anche il fondatore Mark Zuckerberg, che ha ammesso che per evitare che tragedie come quella accaduta a Cleveland Beh, bisogna impegnarsi di più. Facciamo riferimento all'omicidio andato in onda in diretta su Facebook Live e il cui video è rimasto in rete per un paio di ore prima che fosse rimosso. Facebook promette di migliorare i sistemi di allerta che permettono agli utenti di segnalare contenuti inadeguati, perché attualmente questo è il sistema, cioè tu vedi una cosa che non va bene, pensi che sia non adeguata alle regole di Facebook, e nel caso di un omicidio in diretta, beh, abbastanza palese. Ci sono tanti altri contenuti che devono essere valutati e la valutazione è fatta per lo più, soprattutto per i video, da uomini, da persone. Sono centinaia le persone che si occupano della valutazione delle segnalazioni. Ci sono anche sistemi automatici soprattutto per le fotografie, perché è più facile. Per il video è un gran caos, eh? Allora, quindi Facebook promette di migliorare questi sistemi di allerta, essere più veloci, ma di fatto ammette anche che sistemi di intelligenza artificiale ancora oggi non riescono a riconoscere scene di questo tipo, soprattutto video. Altri temi di cui si è discusso durante F8, beh, direi due. Uno è la realtà aumentata, l'altra è la realtà virtuale. Sono due cose parenti, simili ma non uguali. Allora, per quanto riguarda la realtà virtuale, è stato presentato, o mi verrebbe da dire ripresentato, perché non è la prima volta che se ne parla, una cosa che si chiama Facebook Spaces, spazi, che è un'applicazione da usare con i visori Oculus. Sapete che Oculus è una società comprata da Facebook e molti si chiedono ancora oggi che cosa se ne farà, perché alcuni temono che la realtà virtuale faccia la fine del 3D, cioè non frega niente a nessuno praticamente, però forse non è così. Allora, che cosa fa Facebook Spaces? È un'applicazione con la quale si può entrare con un proprio avatar in un mondo virtuale, quindi persone diverse collegate in rete possono con gli Oculus interagire in questa realtà virtuale, cioè praticamente Second Life, è una specie di Second Life, però con questi visori non è che siano poi diffusissimi. Per quanto riguarda invece la realtà aumentata, Facebook cerca di fare alcune cose tipo quelle che fa già Snapchat, e sicuramente la potenza e la forza di Facebook è tale per cui Snapchat sta prendendo delle sberle da una parte e dall'altra. Fondamentalmente permettere cioè a chi usa l'applicazione di Facebook di applicare filtri o effetti particolari, molto spesso simpatici o, a seconda delle vostre opinioni, stupidi, alle immagini scattate o inquadrate con lo smartphone, oppure aggiungere immagini virtuali, quindi applicare delle immagini all'ambiente reale ripreso dalla fotocamera dello smartphone. Quindi, che ne so, io riprendo il viso di una persona e posso aggiungere un tatuaggio, posso aggiungere un colore di capelli particolare, cose di questo tipo. Si usano tecnologie molto complesse per fare delle cose pressoché inutili, ma con la realtà aumentata si possono fare cose utili o comunque in alcuni casi veramente divertenti, in altri veramente utili per il lavoro di tutti i giorni. Ne ho parlato con Francesco Marcantoni, che è il CEO, l'amministratore delegato, nonché fondatore di eSimple, che è una società che si occupa di realtà aumentata e anche di realtà virtuale. Si parla di realtà aumentata quando si sovrappongono contenuti digitali, quindi si pensa ad esempio ad un video, ad un modello 3D, a ciò che siamo in grado di vedere nel mondo reale. Quindi l'abbiamo sentita nominare tantissimo l'anno scorso grazie a Pokémon Go, dove, diciamo, andando in giro con uno smartphone era possibile vedere questi mostrini digitali che si aggiravano per la nostra città, e oggi è prevalentemente utilizzata nell'ambito dell'editoria, quindi con la possibilità di andare ad implementare dei contenuti interattivi e multimediali su un oggetto statico come quello della carta stampata. Ad esempio, faccio un esempio. Ad esempio, noi abbiamo lavorato nei mesi passati con un nostro cliente che è Lidl Italia nello sviluppo di soluzioni che permettono di andare ad inserire contenuti come ad esempio delle videoricette collegati al classico volantino promozionale che tutti noi riceviamo a casa semplicemente puntando lo smartphone sul volantino stesso con la telecamera avviata. Certo, scaricando un'applicazione ad hoc. Esattamente, quindi l'applicazione poi di suo suo lavoro, oltre che ovviamente fornire il contenuto, anche quello di fornire delle informazioni utili al marketing delle aziende, perché prevede, diciamo, anche una serie di informazioni su come l'utente si è comportato su questo prodotto e quindi ti dà delle metriche relativamente a quale prodotto hai visto, quale hai preferito e quant'altro possa essere utile. Senti, ma non sarebbe più semplice veicolare tutta questa informazione solamente sull'app o sui siti internet? Perché c'è ancora oggi la necessità di distribuire un volantino di carta e poi pretendere o sperare che la gente utilizzi il mezzo digitale combinato con la carta? Allora, abbiamo visto che in realtà ancora oggi, nonostante si dica che la carta è morta, la carta vive e vive anche di una discreta salute. Si nota, insomma, che sostanzialmente l'opportunità di avere un attivatore, che può essere il volantino, che può essere la lettera o quello che sia, è un motivo per poter essere attratti nel leggere il contenuto. Quindi da una parte il volantino serve un po' per entrare nelle case delle persone o comunque dargli un motivo per iniziare a leggere un contenuto, dall'altra è un oggetto limitato perché chiaramente non permette di fare quello che dicevi, cioè non permette di fare quello che puoi fare con un sito web o con un'app. Certo, non si può aggiornare banalmente, no? Esattamente, quindi questa ad esempio è una cosa che nelle nostre proposizioni, per esempio nella trasformazione di un catalogo in un catalogo virtuale, le informazioni di realtà aumentata possono essere, a prescindere dall'aggiornamento del catalogo cartaceo, aggiornate in qualsiasi momento da parte del cliente. Senti, un altro ambito di applicazione della realtà aumentata è il mondo industriale. Per farci che cosa? Esattamente, dunque nel mondo industriale abbiamo due mondi che diciamo procedono in maniera parallela. Uno è quello della visualizzazione delle informazioni provenienti da quello che si dice il campo, ovvero dall'ambito industriale, quindi dall'ambito produttivo. Grazie a della sensoristica disposta sulle macchine è possibile andare ad acquisire delle informazioni evolute, per esempio sull'efficienza e sulle performance delle macchine stesse. Dal lato realtà aumentata queste informazioni vengono veicolate in un modo innovativo, ovviamente ingaggiante, che è quello della sovrapposizione delle informazioni a quello che il tablet o lo smartphone dell'utente in quel momento sta vedendo. Quindi per esempio io sto puntando una linea produttiva a una macchina e posso in tempo reale ricevere delle informazioni sulla sua efficienza. A fianco di questo invece c'è un tema prevalentemente manutentivo e di supporto alla manutenzione, soprattutto quando è remota. Si pensi ad esempio a delle aziende che hanno la produzione localizzata per esempio in Italia e magari vendono il loro prodotto in tutto il mondo, quanto sia difficile e costoso oggi dover spedire tecnici specializzati direttamente nella location dell'utente e quanto questa cosa potrebbe essere efficientata invece grazie all'utilizzo di strumenti come questo, ovvero poter trasferire la conoscenza dell'operatore esperto che in questo momento magari si trova in Italia direttamente sul campo tramite le braccia di un operatore un po' meno esperto che localmente lavora all'interno dello stabilimento. Quindi la scena potrebbe essere, in questo caso non con telefonini o tablet perché sono un po' scomodi, con un visore, un tecnico locale inquadra, cioè guarda con questo visore magari un macchinario e cosa succede? Allora, diciamo che in questo caso si parla di un visore see-through, cioè un visore da cui è possibile vedere attraverso, non si parla ovviamente del visore che ti limita la visibilità, che sta sul campo e l'operatore da remoto ha la possibilità di dare delle indicazioni di cosa deve fare, ma con dei riferimenti visivi. Per esempio, se io ti dico svita quella vite che vedi di fronte a te, non ti devo raccontare qual è quella vite, ma te la evidenzio con un overlay, con una sovrapposizione, quindi che tu ti vedrai all'interno del tuo visore e che verrà proiettata sul macchinario su cui stai facendo manutenzione. E possiamo pensare che poi questo tipo di attività, mano a mano che passa il tempo e le tecnologie diventano più raffinate, sia anche automatico. Esattamente, diciamo una delle richieste principali dei nostri clienti è proprio quella del devo per forza avere una situazione one to one, quindi un operatore remoto e un operatore locale. Chiaramente qui la risposta è adesso sì, ma nel tempo no, perché chiaramente il sistema imparerà piano piano e avrà la possibilità tramite machine learning, tramite intelligenza artificiale, di andare a recuperare delle registrazioni precedenti di interventi effettuati per la stessa problematica e riproporre dei contenuti già sviluppati piuttosto che mettere a disposizione un operatore che magari ha un costo o comunque ha un tempo limitato. Certo, fino adesso abbiamo parlato di realtà aumentata. La realtà virtuale che fine ha fatto? Se torniamo indietro nel tempo, se ti ricordi, i primi esperimenti erano gli anni 90 con i caschettini di realtà virtuale. Diciamo, tecnologicamente siamo ancora lì, tra virgolette, ma con una potenza di calcolo decisamente più elevata. Quindi oggi realtà virtuale prevede l'utilizzo di un visore che mi elimina dalla realtà, quindi ha la possibilità di immergermi all'interno dell'ambiente, ha un ambito prevalentemente di utilizzo nel mondo del real estate o nel mondo turistico, quindi ha la possibilità di proiettare in qualche modo l'utente all'interno dell'ambiente. Si divide prevalentemente in un mondo mobile, quindi ho il mio telefonino, lo posso inserire all'interno di un visore che sia il classico visore di cartone che Google propone sotto il nome di Cardboard, o che sia un visore di plastica o comunque un pochino più evoluto, e ho la possibilità a quel punto di essere all'interno dell'ambiente. A fianco a questo c'è tutto il mondo dei visori desktop, quindi mi riferisco a Oculus Rift di Facebook ovviamente, o HTC Vive, che permettono invece un'esperienza, diciamo, di immersività molto superiore, ma che prevedono l'utilizzo di un computer fisso. Quindi sostanzialmente la tecnologia c'è, è molto vicina, è ad oggi utilizzata prevalentemente per il mondo video o foto 360, quindi dove la costruzione e la produzione del contenuto è più semplice rispetto a quella del mondo virtuale. A fianco a questo invece c'è tutto il mondo, appunto, delle piattaforme come HTC Vive, che viene utilizzata anche a livello industriale per la parte di simulazione e training, quindi di formazione nei confronti di personale, prevalentemente anche in questo caso nel mondo meccanico. Il limite maggiore per la diffusione della realtà virtuale nel mondo, tra virgolette, consumer, qual è il costo? Prevalentemente il costo e soprattutto con soluzioni immersive coinvolgenti come Vive anche lo spazio. Diciamo, si pensi che per un Vive è necessario almeno uno spazio libero di 3 metri per 3, e non tutti in casa hanno a disposizione uno spazio così ampio dove poter giocare, tra virgolette. In più, ovviamente, fra visore e un computer di buone caratteristiche siamo intorno ai 2.500 euro di investimento. Quindi chiaramente vedono oggi ancora un pubblico abbastanza di nicchia. Certo, tu hai fatto l'esempio del real estate, cioè quindi degli immobili, delle case e anche dell'arredamento. Mi fai un esempio di come oggi viene utilizzata una soluzione di realtà virtuale per immaginarsi come sarà la casa, immaginarsi come sta una poltrona nel salotto? Allora, abbiamo lavorato per anni con Natuzzi, un brand nazionale noto in tutto il mondo, nello sviluppo di una piattaforma che supporti retailer, quindi rivenditori sostanzialmente, nella gestione del cliente. Quindi l'esempio pratico è il cliente che viene ad acquistare un divano, quindi non conosce come questo divano potrebbe stare a casa propria, e il rivenditore, grazie a uno strumento di realtà virtuale, ha la possibilità con pochi click di andare a ricostruire l'ambiente domestico e di implementare all'interno di questo ambiente i prodotti del brand, con tutte le personalizzazioni del caso. Quindi se il divano lo voglio di pelle rossa, io ti faccio vedere come in un ambiente molto simile a quello di casa tua questo divano può stare. E tutto questo, diciamo che era possibile farlo fino a già da molti anni con il mondo del rendering, quindi il mondo del 3D e la modellazione, può essere oggi effettuato anche da personale non necessariamente esperto di modellazione, anzi in questo caso ci rivolgiamo a venditori, quindi non necessariamente con delle professionalità specifiche, ma soprattutto lo può fare in tempo reale. Quindi non ci sono più quei tempi di attesa tipici del rendering, ma è possibile sostanzialmente con pochi click dare una risposta al cliente in pochi minuti e in maniera interattiva. Quindi se l'oggetto non ti piace in quella posizione o di quel colore, io te lo cambio in tempo reale e ti do una visione di quello che può essere. Tutto questo chiaramente poi viene collegato ai sistemi gestionali e può andare addirittura a produrre un preventivo nonché un ordine, quindi facilita l'operatore nella gestione della compravendita sostanzialmente, non solo, elimina anche tutte le possibilità d'errore, perché il sistema non ti permette di costruire combinazioni che poi non puoi vendere. In entrambi i casi, sia per quanto riguarda la realtà aumentata, sia per quanto riguarda la realtà virtuale, Beh, i visori attualmente disponibili sono forse uno dei vincoli maggiori. Direi che quasi tutti gli operatori con cui ho parlato, con cui sono in contatto, ritengono, ma io stesso provandoli dico la stessa cosa, che non siamo ancora arrivati ad un livello di maturità e di facilità d'uso, di capacità di riprodurre le immagini in un certo modo, con una certa ampiezza. Quindi in generale questi visori, sia per quanto riguarda la realtà virtuale, e parliamo di Oculus e di Vive, oltre al prezzo molto elevato, sia per quanto riguarda la realtà aumentata, Moverio ad esempio è un nome di Epson, è uno degli occhiali più utilizzati, HoloLens di Microsoft. Insomma, in tutti questi casi ancora non ci siamo proprio. Le cose devono essere molto più fluide e molto più veloci. Cioè, immaginiamo un operaio dall'altra parte del mondo che si indossa uno di questi aggeggi e deve funzionare molto bene, e ancora siamo ad un livello di immaturità di questi prodotti. Nonostante tutti i produttori vendano questi prodotti come invece già maturi, non ci siamo proprio. Infatti tutti gli operatori che poi devono scendere in campo e devono offrire soluzioni alle aziende si scontrano con questo problema. Però verrà risolto, ci vorrà un po' di tempo, ma verrà risolto. Abbiamo citato anche Cardboard di Google. Beh, ad esempio, questa è una pessima cosa per la realtà virtuale, perché l'esperienza che uno ha non è che sia fantastica, cioè ti fa più o meno capire che cos'è la realtà virtuale, ma poi uno, visto che è di scarsa qualità, dice vabbè, è una schifezza. In realtà poi con Oculus e Vive l'esperienza è molto più immersiva, tutta un'altra cosa, però anche in quel caso bisogna fare qualche passo in avanti e dal punto di vista del prezzo qualche passo indietro. Dunque, volevo parlare di fibra ottica prima di parlare di cyber security. Allora, una cosa di cui si è parlato in settimana riguarda Open Fiber, che ha svelato un dato interessante, cioè che in quasi tutte le aree dove poserà fibra ottica la velocità minima delle connessioni sarà di 100 megabits. Però, a parte che non ha molto senso per un'azienda che fa un'infrastruttura passiva parlare di velocità. È vero che nei bandi che sono stati fatti dallo Stato c'è un riferimento alla velocità, però qui stiamo parlando della costruzione di un'autostrada. Quindi quando tu costruisci l'autostrada non è che poi dici questa è un'autostrada nella quale gli autoveicoli potranno andare a 100 km all'ora. Cara società che fai le autostrade, in questo caso cara Open Fiber, tu fai l'autostrada, poi io guido il veicolo e ci penso io ad andare a 100, 200, 300, eccetera, eccetera. Open Fiber, lo ricordo, è la società di Enel che si è fusa con Metroweb e che ha vinto i bandi di gara dello Stato per posare fibra nelle aree cosiddette a fallimento di mercato. Sottolineo cosiddette a fallimento di mercato. Però comunque questo upgrade, questa che è comunque una buona notizia, cioè da alcune aree che erano solo a 30 megabits si va di default almeno a 100 megabits, riguarda le aree di Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, che sono oggetto del primo bando di gara, ma è possibile, probabile, che questo miglioramento venga poi adottato anche nelle altre regioni. Vedremo. Ricordiamo che il bando prevedeva per alcune zone una velocità minima di 30 megabits. In base alle informazioni diffuse da Open Fiber durante un incontro al Ministero con le regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, saranno solo 30.000 le unità immobiliari, pari allo 0,66% del totale, non raggiunte dalla fibra e coperte con altre tecnologie, magari con qualche pezzetto di rame o con tecnologie radio. Poi, quando avremo la possibilità di parlare direttamente con Open Fiber, io sono mesi che ho chiesto un'intervista, però dovrei insistere un po' di più, ammetto. Quando avremo la possibilità ci faremo raccontare come sarà questa infrastruttura, però sicuramente una cosa che non va detta, e speriamo non venga mai detta, è ci saranno connessioni a 100 megabits, perché ricordiamo che Open Fiber non fornirà il servizio al cliente finale, saranno i vari operatori, ad esempio Vodafone, Wind, che hanno già fatto accordi con Open Fiber, cioè saranno loro a decidere la velocità con la quale offriranno collegamenti alle persone, al cliente finale. C'è un'altra cosa da ricordare in questo dibattito molto interessante che stiamo seguendo da anni. Allora, in queste zone cosiddette a fallimento di mercato si è venuta a creare una situazione paradossale. Perché da zone che appunto venivano definite a livello europeo a fallimento di mercato, ormai si sono trasformate in zone dove ci sarà competizione, visto che TIM, cioè Telecom Italia, ha annunciato già da un po' di tempo, ma negli ultimi giorni ha detto che siamo quasi alla fase finale, ha annunciato che creerà una società ad hoc e metterà soldi per 1 miliardo, cioè raccoglierà investimenti per 1 miliardo per posare fibra ottica proprio in queste zone. Ma non erano zone a fallimento di mercato, in cui si diceva da tempo, la stessa Telecom Italia da tempo diceva non ci si può andare perché non c'è domanda, il mercato non è interessante? Che strano, adesso c'è Open Fiber che ha vinto i bandi di gara dello Stato e TIM che intravede all'orizzonte la possibilità che molti utenti, molti clienti in quelle zone passino agli operatori che offriranno collegamenti tramite Open Fiber, adesso quelle zone non sono più a fallimento di mercato, sono diventate zone interessanti, ci si investe 1 miliardo. Quindi non è nemmeno vero quello che diceva qualcuno in Telecom qualche anno fa, che per fare un'infrastruttura in fibra ottica in quasi tutto il paese bisognava investire 30 miliardi, più di 30 miliardi. Questi con 1 miliardo fanno un'infrastruttura in parecchie zone del paese, stiamo parlando di milioni di abitanti. Beh, comunque sono tutte buone notizie, perché questo mercato che prima sembrava non esistere adesso esiste. Quindi anche i cittadini sperduti nelle brughiere, si dice così in Lombardia, sono diventati non più a fallimento di mercato, ma sono un mercato, sono interessanti. Comunque stiamo parlando di investimenti che verranno fatti da qui al 2020-22, grosso modo, e stiamo parlando di connessioni in fibra ottica direttamente nelle case, fiber to the home. In questa prima fase, mentre ve la raccontiamo, siamo ancora al fiber to the press, FTTP, cioè fibra alla stampa, cioè quella che poi viene diffusa dalla stampa, prima che diventi fiber to the home, cioè fino a che arriva nelle case veramente degli utenti. Comunque siamo contenti, buon lavoro sia a Open Fiber che anche TIM in queste zone, poi vediamo come si evolve la situazione, perché sicuramente non ci sarà una competizione infrastrutturale, cioè non penso che TIM vada a mettere un'infrastruttura laddove l'ha già messa Open Fiber e forse nemmeno viceversa. È una specie di gara a chi arriva primo e poi si vedrà, il primo che arriva dopo si mette d'accordo con il secondo, ma non lo so, vedremo un po'. Comunque l'importante è che qualche cosa arrivi per togliere da molti milioni di cittadini, poveri cittadini, delle ADSL che ormai sono del medioevo, però i cittadini pagano fior di quattrini. Questo è 2024, la nostra versione podcast del nostro programma. Tra poco c'è Marco Ramilli, fondatore di Yoroi, esperto di cyber security. Faremo una bella chiacchierata con lui e ci divertiremo a parlare di uno dei più grandi problemi del secolo, del millennio, la sicurezza digitale. Il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14, ma come sempre la nostra edizione podcast ha tutte le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it e mi potete trovare anche attraverso Facebook e Twitter, basta digitare e cercare 2024. Marco Ramilli, fondatore, responsabile dello sviluppo tecnologico, CTO, si dice, Chief Technology Officer di Yoroi. Benvenuto 2024. Grazie. Dunque Marco, diciamo subito che Yoroi si scrive con la Y davanti. Y iniziale, sì. Alla radio è bene sottolineare queste cose. Tu sei il CTO, Chief Technology Officer, cioè responsabile dello sviluppo tecnologico, nonché uno dei fondatori di questa azienda che si occupa di sicurezza, però delimitiamo il campo perché voi fate difesa, siete dei pacifisti da un certo punto di vista. Sì, è proprio così. Il nostro obiettivo e la nostra missione unica è quella di difendere il nostro cliente. Yoroi nasce pochi anni fa nell'intento di creare un sistema tecnologicamente avanzato per aumentare la capacità di analisi dei nostri analisti. Quindi quello che facciamo è offrire un servizio, che lo chiamiamo Cyber Security Defense Center, è appoggiato e quindi è basato su nostre tecnologie create ad hoc, tutte in ambiente tra l'altro anche italiano, quindi tutte sì, italiane. Sì, tecnologie made in Italy, uh-huh. Esattamente, e che hanno come obiettivo quello appunto di amplificare l'operato dei nostri analisti. Attraverso questa piattaforma hanno la possibilità di individuare le minacce e mitigarle e quindi comunicarle e prendersi in carico del management di tutta la risoluzione. Poi approfondiamo questo, tu ti occupi di questo tema, cioè di cyber security, di sicurezza informatica da un po' di anni. Sì, esatto. Anche se sei molto giovane, quindi il tuo hobby da ragazzino era fare questo? Esattamente, sì sì. Ho iniziato lo studio della cyber security molti anni fa, in realtà già all'università, durante la triennale. Dopo ho preso un master in computer science all'Università di Bologna, per poi prendere un PhD a UC Davis, California, dove ho studiato nello specifico tecniche di penetration testing e malware evasion, quindi come il malware ad oggi riesce ad evadere sistemi comuni di difesa. Da quel momento ho avuto la fortuna e l'opportunità di andare a lavorare per il NIST è il National Institute of Standard Technologies a Washington DC, dove ho lavorato con loro per circa un anno. Cioè lavoravi per il governo americano? Sì, per i federali. Che cosa facevi? Tutti i federali. Sì, il nostro compito era, almeno nel team in cui ero io, era quello di difendere la democrazia, era we defend democracy. Addirittura, cioè, esatto. Una roba importante. Sì, il nostro obiettivo era quello di effettuare testing sui sistemi di voto elettronico. Negli Stati Uniti le persone, i cittadini, esprimono il loro voto attraverso sistemi elettronici, quindi non attraverso schede elettorali cartacee come da noi. E l'obiettivo era quello di testare se questi sistemi elettronici erano sicuri o meno. E apparentemente sono sicuri. Queste sono informazioni che non si possono lasciare. Vabbè, però diciamo la versione ufficiale è che siano sicuri. Ricordiamo certo, che sì. non stiamo parlando di voto elettronico in remoto, o c'è anche questo. Parliamo di totem che sono lì presenti a seggio, giusto? E in realtà sono entrambe. Entrambi, esatto. Sì. E tipicamente il voto elettronico da remoto è per i militari o comunque per chi sono all'estero, quindi per le persone che risiedono sì. all'estero ma che hanno diritto di voto negli Stati Uniti. Sì. Senti, tu sei tornato in Italia, ci dai subito un parere sul mercato che c'è in Italia, in Europa, che mi sembra di capire che il mercato c'è, è in crescita e ci sono anche posti di lavoro. Questo è un buon mercato per chi cerca lavoro. Cioè, ovviamente sì. sono necessarie competenze piuttosto forti. Sì, la problematica della cyber security esiste da tanto tempo. I primi attacchi informatici risalgono agli anni 70. E tuttavia ultimamente, a seguito del rilascio di alcuni sistemi che vengono chiamati exploit kits, quindi che rendono possibile attacci informatici con successo, quindi con una massima efficacia a tutti o comunque anche a persone non troppo skillate, è aumentato tantissimo la problematica della cyber defense. Questo quindi ha amplificato tantissimo il numero di attacchi informatici, il quale hanno ovviamente la necessità di essere mitigati o comunque di essere gestiti. Quindi di conseguenza viene da sé che c'è la necessità di persone che vengono chiamate cyber security analyst che abbiano queste competenze. Quindi c'è tanto posto, ci sono tanti posti di lavoro. Quindi posti di lavoro ci sono e le persone ci sono? Le persone ad oggi sono difficili da trovare perché la formazione è una formazione che ancora non è ben sviluppata né dal punto di vista accademico né dal punto di vista professionale. Quindi non c'è un vero e proprio e unico percorso per formarsi, ma c'è bisogno di tanta esperienza e della tipicamente di curiosità. Ecco. Certo, però se uno deve specializzarsi, studiare, oppure se uno ha figli, questo è un buon settore sì. anche per i prossimi forse 10, 20, 30 anni. Sì. raccontare. Senti, tu a proposito di skills, intanto quante persone ci sono in Yoroi? Ad oggi di analisti siamo una quindicina. Il vostro servizio, mi sembra di capire, è molto basato sulle persone. E ti faccio questa domanda in un momento in cui si parla di automazione, di robot, di intelligenza artificiale, cioè di macchine che sostituiscono gli uomini. Sì, grazie per la domanda, è molto intelligente e interessante dal mio punto di vista. Partiamo da questo presupposto, che un attacco informatico deve in qualche modo trarre o dare beneficio a qualcuno. Quindi io ho perso un ego, per esempio, quindi un ego specifico per motivi politici o anche per motivi economici. Quindi fino a che da un lato esiste è una persona fisica che trae questo profitto, quindi che trae beneficio da un attacco informatico, e fino a che dall'altra parte dell'attacco vi è un'altra persona fisica, quindi l'attacco arriva magari a dei dati di persone che però sono appunto dati appartenenti a organizzazioni fatte da persone, allora secondo noi l'unico modo per riuscire a bloccare, a individuare e a capire come avviene questo attacco è attraverso un'altra persona, quindi attraverso un altro essere umano. Ovviamente un essere umano da solo può effettuare analisi in maniera magari non troppo performante e magari anche senza standard, quindi ha la necessità di avere degli strumenti in grado di creare analisi standard e di dargli comunque una capacità e di amplificare il loro operato. Quindi anche noi usiamo sicuramente algoritmi di machine learning e di artificial intelligence che però non hanno come scopo quello di individuare e bloccare per sé la minaccia, ma hanno come scopo quello di aiutare un analista e quindi di suggerire all'analista cosa fare. Sì, però tu immagini che tutto quello che sta succedendo, e magari dopo ti chiederò e ti farò raccontare anche quello che sta succedendo, diventerà nei prossimi anni sempre più automatico, perché effettivamente in internet ci sono un sacco di operazioni che si stanno automatizzando. Pensiamo alle borse, compravendita di titoli fatte da macchine sulla base di istruzioni di algoritmi, ma insomma la lista è molto lunga. Ecco, in ambito cyber security o cyber attack ci saranno degli automatismi? Allora, secondo me bisogna dividere gli attacchi in due macro categorie. La prima categoria è quella degli attacchi opportunistici, la seconda categoria invece è quella degli attacchi targetizzati, ossia in cui vi è un obiettivo specifico. Nella prima categoria, opportunistici, gli attaccanti utilizzano framework e strumenti automatici. Quindi è molto probabile, secondo me è quasi certo, ma la certezza in questo campo non si ha quasi mai, che nei prossimi anni tutta questa tipologia di attacchi possono essere bloccati da sistemi semi-automatici, non totalmente automatici. Quindi questo mondo è... ci provo, do coio coio. Esattamente. Cioè, faccio una di 100 milioni di attacchi e qualcuno lo becco. Esatto. Tipicamente la maggior parte di questi attacchi possono essere individuati con strumenti automatizzati. E l'altra parte invece degli attacchi, quelli che ahimè hanno anche un impatto più importante a livello organizzativo e a livello anche personale, se l'attacco avviene verso una persona fisica, invece sono più difficili da poter individuare attraverso un sistema automatizzato, proprio perché dall'altra parte l'attaccante è un essere umano e quindi cerca di studiare, prima fa tutta un'azione di intelligence per capire di studiare, per studiare appunto l'attaccato e capire quali sono le sue difese per poi riuscirle a bypassare. Quindi in quel momento c'è la necessità, secondo il mio personale punto di vista, di avere un'altra persona con uno skill set compatibile in grado di comprendere qual è il piano dell'attacco per poi riuscire a bloccarlo. Certo, cosa non facile, complicata. Mi puoi fare un esempio, giusto per capire di cosa stiamo parlando? Sì, abbiamo vari esempi, uno magari dei più simpatici. Simpatici tra virgolette. Sì, simpatici nel senso di significativi, ecco. Sì, sì. Uno dei no, più no, significativi. Capisco la deriva, anche noi tra giornalisti a volte commentiamo fatti tragici, sì. Dicendo questo è... appunto simpatico, ma tra virgolette, perché poi nel sì, gergo, dal punto di vista puramente tecnico è molto significativo. E in questo caso stiamo parlando di un'azienda che produce carta, è una carta particolare, una carta che serve per stampare banconote, e come ogni diciamo bene fisico deve essere trasportato. E il trasportatore doveva portare appunto questa carta in un posto particolare, che però non era quello usuale. E l'attacco consisteva nell'aver cambiato nel documento di trasporto l'indirizzo, e fortunatamente il trasportatore si è reso conto dell'inusualità del posto in cui stava andando e ha avvisato subito la propria organizzazione, che lo hanno bloccato, l'hanno richiamato. Quindi questo era un obiettivo specifico, cioè hanno detto adesso buchiamo questa azienda, cambiamo l'indirizzo della destinazione della merce e se ci va bene abbiamo la carta per fare gli euro. Esatto, questo è un esempio, un tipico esempio di attacco targetizzato. Un altro esempio di questa natura è accaduta in un'altra organizzazione nel mentre in cui l'amministratore delegato era in volo e quindi stava andando in un altro posto, diciamo così, e mentre durante il volo una mail appartenente al proveniente proprio dalla casella di posta dell'amministratore delegato chiede al suo CFO di fare un bonifico di qualche decina di migliaia di euro presso uno studio legale. Questo perché nel momento in cui l'amministratore delegato sarebbe atterrato, esattamente, avrebbe avuto la necessità di utilizzare questo studio legale. Sì. E ovviamente questo era falso, l'organizzazione è un'organizzazione molto grande, quindi poche decine di migliaia di euro non erano sospette e l'attacco è andato a buon fine, quindi è stato fatto quindi gli hanno fregati i soldi, è stato fatto questa transazione, sì. Attacchi invece di tipologia una cosa del genere, quindi dici è quasi impossibile da intercettare da sistemi automatici, dall'antivirus o dal firewall, no? Perché... Esattamente. Esistono dei metodi per accorgersi di questa tipologia di attacchi che vengono chiamati piccoli rumori, quindi esistono tante piccole note o comunque tante piccole situazioni che l'analista può interpretare per poi capire che si è sotto questa tipologia di attacco. Un sistema totalmente automatizzato non ha, almeno ad oggi e secondo me neanche domani, la possibilità di individuare questo genere di attacchi. Certo. Senti, noi stiamo parlando di grandi organizzazioni, anche voi vi rivolgete a medie grandi organizzazioni. E i piccoli come fanno? I piccoli non dicono necessariamente i professionisti, anche se devo dire ci sono milioni di professionisti, le famose partite IVA, che vanno dall'agente di commercio all'idraulico, al falegname, insomma tanti professionisti che hanno oramai un computer, uno smartphone, usano sistemi elettronici o per fare la fatturazione elettronica o per accettare pagamenti elettronici, quindi sono possibili bersagli anche loro. E come fanno? Purtroppo non c'è una ricetta da poter seguire e purtroppo molto probabilmente questa tipologia di persone non hanno la possibilità di appoggiarsi a un sistema complesso magari come quello che offriamo noi. Però hanno la possibilità di fare alcune azioni che possono risultare semplici e basilari, ma che sono assolutamente efficaci. Per esempio avere sistemi sempre aggiornati, questo è uno step base ma che funziona sempre. Avere sistemi antivirus e firewall perimetrali, per esempio nella propria abitazione o dove svolgono principalmente il loro lavoro. E soprattutto aumentare la consapevolezza, cioè è importante da ricordare che oggi un link può essere considerabile come un'arma, quindi di non cliccare su tutti i links ma di porsi qualche domanda prima di farlo ed essere certi di aprire link e o allegati o file comunque provenienti da persone conosciute e fidate. Tu hai detto il link può essere considerato come un'arma. Mi sembra una immagine molto efficace, ma in generale che cosa succede? Quali sono i principali pericoli, i principali attacchi? Allora, diciamo che se non consideriamo sistemi industriali, quindi SCADA, se non consideriamo sistemi e organizzazioni, quindi che possono essere targetizzate da attacchi specifici, e se consideriamo invece magari attacchi più orientati alla popolazione, le minacce principali sono ad oggi di due tipi, watering hole e phishing. Cosa vuol dire? Significa la navigazione di siti normali, quindi navigando in siti apparentemente normali, essi possono contenere degli exploit kits che hanno la possibilità, quindi possono contenere dei sistemi malevoli che hanno la possibilità di sfruttare alcune vulnerabilità del browser, che è quello strumento che si utilizza per navigare in internet, e sfruttando tali vulnerabilità hanno la possibilità di iniettare nel sistema, quindi nel computer della vittima, dei software non voluti che prendono il nome di malware. Questo è uno scenario. Un altro scenario è semplicemente via posta elettronica, quindi arriva per esempio un link, il malcapitato lo clicca sopra il link, come per esempio il, non so, la famosa fattura di una nota compagnia di elettrica, e questo link ovviamente non va nel sito reale, ma va in un sito creato ad hoc che è totalmente uguale a quello reale, scarica magari del file che ovviamente è malevolo e quindi va a infettare. Certo, oppure banalmente ti chiedono: metti la tua password, la tua user, e quella password, quella user poi viene utilizzata per, visto che si presume che molti utilizzino le stesse password per vari servizi. Quindi questo è ormai un vecchio sistema che però funziona ancora oggi. Assolutamente sì. Il sistema di attacco, quindi il vettore di attacco, è molto simile ed è difficile che cambi negli anni, almeno non è cambiato tanto nell'anno. E quello che cambia invece radicalmente è la tecnica col quale si evade i sistemi di sicurezza, cioè il file sul quale faccio doppio clic, come fa questo a non essere riconosciuto dall'antivirus, o come fa questo a bypassare i sistemi perimetrali di protezione. Quindi la modifica di questo che viene chiamato malware, di fatto, quindi l'evoluzione di questi malware, sono tipicamente l'arma principale che oggi utilizzano gli attaccanti per infettare le nostre macchine. Abbiamo citato i computer, gli smartphone e i tablet sono più sicuri? No, assolutamente no. Anzi, ultimamente c'è un incremento molto, molto importante di attacchi di tipologia malware su questi dispositivi. iOS o Android? Cosa preferisci dal punto di vista della sicurezza? Personalmente preferisco iOS perché è una piattaforma più chiusa e quindi è più complesso, ma non impossibile, anzi ci sono applicazioni molto, molto note che sono state infettate, però è più complesso in quanto è una piattaforma più chiusa rispetto invece per esempio ad Android, che invece essendo aperta ed avendo molti marketplace è più facile prendere un'infezione su applicazioni. Senti, mi sembra di capire che sia più facile diventare un cattivo che un buono. Questo collegato anche al fatto che si fatica a trovare competenze, persone brave. E è più facile, sì, è più facile perché appunto ad oggi sono stati creati degli strumenti per effettuare gli attacchi che sono veramente semplici. Sono così semplici che molte della microcriminalità, quindi quella che una volta era appunto la piccola criminalità che si trovava per strada, hanno deciso di cambiare, quindi di effettuare lo stesso mestiere, quindi di criminalità però sul web o comunque in internet, perché traggono un profitto maggiore. Questi strumenti, come diciamo, sono così semplici da utilizzare che non servono skill specifiche, è sufficiente acquistarle, molte volte è anche sufficiente andare per esempio nel darknet o comunque nei black market ad acquistarle service, quindi pago un abbonamento e tu mi attacchi tot computer. Esattamente, ho la necessità per esempio di avere una botnet di 150 macchine e non pago neanche prima, ma pago soltanto a success fee, quindi ingaggio un soddisfatto e rimborsato, cioè, anzi ancora di più. Esattamente. Pazzesco, e poi quello che non raccontiamo perché non abbiamo tempo e perché alcune cose sono anche complicate da raccontare, però effettivamente può succedere. Senti, il cloud, c'è un dibattito mondiale tra chi sostiene come un talebano il cloud e quelli che sono molto più prudenti, ed effettivamente bisogna essere un po' prudente perché troppo cloud forse non va nemmeno bene, però è un tema dal punto di vista della sicurezza. Dal punto di vista della sicurezza il cloud è il computer di qualcun altro, quindi questo ovviamente va detto, e è comunque una grandissima opportunità ed è comunque un'attività e un sistema per il quale io personalmente, ma anche tutta la mia organizzazione, è molto favorevole. Ovviamente, essendo consapevoli che i dati vanno all'interno di un computer di qualcun altro, è necessario prendere alcune precauzioni. Esistono diversi strumenti per la cifratura dei dati e quindi per poter posizionare dati in maniera diciamo sufficientemente sicura, però tutto dipende molto dall'analisi del rischio che si fa. È ovvio che un'informazione che per me o la mia organizzazione ha un rischio molto, molto elevato o comunque è molto molto importante, non andrò a posizionarla sul cloud. Quindi diciamo che da un lato è un'opportunità importante e siamo, anche noi in Yoroi la utilizziamo come erogazione di servizio. Dall'altro lato, dipendentemente dai dati che uno ci va a posizionare, deve stare ovviamente attento. Senti, di fronte a questo, anche questa è una parola che viene abusata negli ultimi tempi, industria 4.0, cioè informatizziamo le nostre aziende, a parte che molti non hanno ben capito che cos'è industria 4.0, non è comprare il gestionale lo diamo già per scontato ed è una cosa che dovremmo già avere e possedere, è una cosa molto più complessa, molto più raffinata e va pacchettizzata, va personalizzata azienda per azienda. Però di fronte a industria 4.0 e Internet of Things, che è un ingrediente di industria 4.0, c'è chi è estremamente preoccupato perché dice stiamo creando un sistema perfetto per chi deve attaccare, perché tutte queste cose collegate alla rete non sono sicure. Tu che dici? Sì, ahimè, gli ultimi dati comunque lo dimostrano. Basta pensare a Mirai, che è una delle ultime botnet basate su Internet of Things. Mirai era un sistema per prendere il controllo di tanti oggetti, sì, collegati alla rete per fare attacchi, giusto? Esatto, per utilizzarli a scopi malevoli. E diciamo che esistono vari argomenti su cui potremmo trattare su questo topic. Però, se vuoi puoi tornare, okay. Però diciamo accenniamo. Sì, uno dei problemi principali è il go to market. Cosa significa? Significa che, usualmente parlando, chi arriva prima nel mercato con dispositivi IoT beneficia poi del primato anche delle vendite. Quindi si cerca di favorire tantissimo il go to market, quindi di andare al mercato nel miglior tempo possibile. Questo ovviamente è in contrapposizione con i test funzionali e i test di sicurezza che questi dispositivi possono avere. Quindi esistono ad oggi tantissimi dispositivi che sono, lasciatemi usare il termine, vulnerabili, anche se è un termine che ha poco significato detto in questo contesto, però che sono deboli, ecco. E questi dispositivi messi sul mercato deboli e sono in massa, sono tantissimi, danno la possibilità poi ad attaccanti, come per esempio a chi ha scritto Mirai, di sfruttare queste debolezze e prendere il possesso di questi dispositivi. Assumiamo che i dispositivi di per sé non siano dispositivi importanti, quindi non stiamo parlando di pacemaker o insulin pumps per esempio, ma stiamo parlando di telecamere o comunque di router. Quindi comunque se la telecamera è in casa mia, non è, sì, che sia irrilevante il fatto che qualcuno riesce ad attaccarla e mi vede magari io mentre esco dalla doccia, non che faccia cosa tra, però no, sì, non è bello, sì, sì. No? È una violazione della privacy comunque. Però la minaccia è ancora più diciamo così più grande, perché vengono utilizzati questi dispositivi per poi effettuare dei ricatti verso a organizzazioni o diciamo così a chi viene attaccato di fatto. Quindi è molto importante, e questo sottolinea anche il perché, adesso faccio un passo un po' indietro, anche il perché la piccola industria o anche la persona fisica è molto coinvolta dentro questa tipologia di attacchi. Esistono delle piccole imprese che dicono io non ho nulla da proteggere, e questo magari è anche vero, però il vero problema non è che non hai nulla da proteggere, che la tua infrastruttura può essere a sua volta utilizzata come attacco verso terzi, e quindi devi proteggere la tua infrastruttura anche se non hai dei dati o eccetera eccetera. E quindi se assumiamo queste Internet of Things come infrastruttura, perché alla fine sono dispositivi che hanno forza computazionale e banda, allora è necessario difenderli. Quindi da un lato è inevitabile, il mondo va verso questa direzione, per fortuna, perché comunque è un'opportunità grandissima. Pensiamo a tutti i pro che questi Internet of Things possono avere. D'altra parte però bisogna avere la consapevolezza che si amplificano tantissimo il perimetro di attacco. Mm-hmm. Ma è vero che ci sono delle banche dati, dei database in giro per internet dove ci sono un sacco di videocamere che io posso agganciare, posso vedere in casa gente, perché sono tutte cose non protette. Sì, è assolutamente vero, e non c'è neanche bisogno di andare in questi repository database. Esatto, sì, sono più in realtà dei repository di links. Basta utilizzare Google, e quindi esistono degli strumenti o delle ricerche particolari, si chiamano Google Docs. E attraverso queste ricerche si può entrare a visionare, per esempio, molte telecamere IP che sono state indicizzate. Se pensiamo a tutte queste cose che possono accadere e le pensiamo nel mondo delle infrastrutture critiche, sì, possono accadere cose brutte che ancora non abbiamo visto? Sì, purtroppo il mondo delle infrastrutture critiche è un mondo molto complesso ed è un mondo molto anziano, nel senso che esiste da tanti anni, quando ancora queste problematiche non erano così evidenti. Quindi i sistemi sono datati e magari la tipologia di sistemi di sicurezza che sono stati coinvolti per la protezione dei sistemi critici, delle infrastrutture critiche, non sono poi così tanto adeguati, ma non perché non ce n'è la necessità o il volere, perché comunque hanno degli anni, sono datati. Certo, è complicato cambiare i sistemi, costa molti soldi, cioè, esatto. Pensate a tutto il sistema che controlla gli aeroplani in giro per il mondo, poi bisogna trovare accordi tra nazioni, insomma non è una cosa semplice. Esattamente, quindi avere la possibilità di accedere a queste reti per ovviamente modificare il contenuto e quindi modificare il flusso di informazioni è comunque un'attività che potrebbe creare dei gravi problemi, ecco, questo sì. E quindi bisognerebbe investire più denaro e più risorse, più persone per proteggerle. Sì. Cosa che non si sta facendo, ma mica solo in Italia, in giro per il mondo. Sì, diciamo che però è un topic molto caldo, quindi si sta lavorando molto in questo settore. C'è attenzione. C'è molta attenzione e si sta progredendo in maniera molto veloce verso applicare alcune soluzioni. Ultima domanda delle domande: dove le salvi le tue password? E come le gestisci le tue password? Perché poi alla fine uno dice: vabbè, ma io ho questo problema, che è un grave problema. Se è vero che non va bene utilizzare la stessa password, bisogna cambiare spesso le password, però io ho 100 password, mi scoppia il cervello. Sì, allora personalmente non faccio disclosure dei sistemi che utilizzo. Però... Non faccio disclosure vuol dire non ve lo dico. Ok, esatto. Però esistono diverse tecniche. Per esempio... Cioè, quindi tu hai un sistema complicatissimo, geniale, non ce lo vuoi dire. No, semplicemente per sicurezza è meglio. Magari ognuno... esistono diverse tecniche, quindi una delle tecniche principali si chiama per esempio mnemonic password formula, che significa imparare o creare una propria formula e applicarla poi tutte le volte nella generazione di password, e questo serve per ricordarsi password anche molto complesse. E se non si ha la necessità o la voglia o la capacità di crearsi una propria mnemonic password formula, esistono degli strumenti più o meno noti che hanno la possibilità di generare password sicure e racchiuderle per voi e quindi tenerne traccia per voi. Cioè parli dei password manager, cioè quelle applicazioni o i software che ti gestiscono le password? Sì, esattamente. Ne esistono di varia natura, ne esistono alcuni che sono totalmente locali e quindi non sono remotizzati, e alcuni di essi utilizzano degli algoritmi di cifratura che è matematicamente, almeno ad oggi, impossibile decifrarli, quindi anche a seguito di un furto poter risalire a tutto il caching che c'è all'interno, e quindi sono considerabili ad oggi sufficientemente sicuri. Bene, io ringrazio Marco Ramilli per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie anche per lo sforzo che hai fatto nel tradurre, laddove è possibile, non sempre, ma termini inglesi in italiano. Grazie. Te lo dico perché molti ascoltatori mi scrivono, molti no, però alcuni ascoltatori mi scrivono e dicono: dite ai vostri ospiti di parlare in italiano. Però sei stato bravo. Grazie, okay. A presto. Grazie. È tutto per questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Questa è la versione podcast del nostro programma. Ci trovate anche in onda venerdì 22-23, cioè dalle 22 alle 23, domenica tra le 13.30 e le 14. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.